giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona domenica da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio GR, in cui parleremo della preoccupazione dei viticoltori regionali in merito agli annunciati dazi di Trump sui vini, uno scenario che cancellerebbe di fatto le vendite negli Stati Uniti. Ci occuperemo poi della fine del Ramadan, questa mattina una cerimonia organizzata a Trieste dalla comunità islamica aperta ai cittadini e di un nuovo centro culturale a Pordenone. In apertura dunque gli annunciati dazi dell'amministrazione Trump su prodotti d'eccellenza del nostro territorio come il vino, che ha un grande potenziale nel mercato americano. In attesa della fatidica data del 2 aprile però gli ordini si sono fermati. Il presidente Trump ha chiamato il 2 aprile il giorno della liberazione, il momento in cui saranno svelate le strategie americane sui dazi. Al Vinitaly, che inizia il 6 aprile, i produttori di vino avranno finalmente un numero con il quale confrontarsi, ma soprattutto potranno parlare con i più importanti compratori statunitensi. Sarà per tutti loro una liberazione dall'incertezza e si avrà finalmente la percezione di come andranno gli ordini. Nelle ultime settimane, ci dicono Paolo Valle e Denis Ermacora, presidente e vicepresidente del Consorzio Friuli Colli Orientali, gli ordini si erano fermati. Chi compra e deve rivendere vino negli States, se sa che c'è una tassa, acquista il minimo indispensabile. Nei porti del Tirreno, da Livorno a Genova, ci sono milioni di bottiglie ferme nei container. Non sono partite per non arrivare, dopo 28 giorni di navigazione, ad essere sdoganate con tutt'altro prezzo rispetto al preventivato. Il consorzio rappresenta 217 imprenditori. Dei 90.000 ettolitri prodotti, un 20% prende la via dell'America. Il dubbio è che eventuali dazi, chissà se al 20 o al 200%, alla fine non facciano che danneggiare il consumatore americano, che nelle intenzioni dovrebbero invece proteggere. Se una bottiglia di vino viene venduta a 2 euro, sarà sempre venduta a 2 euro. I costi di produzione sono incomprimibili. A modificarsi sarà il prezzo sullo scaffale USA, dove arrivava magari a 10 dollari dopo l'applicazione di tasse federali, tasse statali e costi di logistica. Un più 20-30% potrebbe essere riassorbito dalla logistica, appunto. Quando dopo il Covid il costo dei container era quadruplicato, non ci fu questo tracollo nelle vendite, continua Paolo Valle. I vini friulani sono di tante varietà e di fascia medio-alta, più flessibili alle fluttuazioni del mercato. Da imprenditori, conclude, la peggior cosa è l'incertezza, che obbliga il vino a restare fermo in dogana e paralizza chi fa l'ordine. Incertezza che, per fortuna, a breve dovrebbe terminare, in un senso o nell'altro. Butreo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la comunità islamica di Trieste si è riunita in preghiera per la celebrazione della festa di fine Ramadan, la prima delle due grandi feste rituali islamiche. La cerimonia, che si è tenuta al campo sportivo di Via Felluga, San Luigi, era aperta al pubblico. Il viso rivolto verso il sole che si fa alto nel cielo, gli ultimi ritardatari corrono a stendere il tappetino. Comincia la preghiera al campo sportivo di San Luigi a Trieste, pieno di più di 2.000 fedeli musulmani, raccolti per festeggiare la fine del Ramadan, il mese sacro per l'Islam in cui si digiuna dall'alba al tramonto. Sentiamo Akram Omar, il presidente della comunità islamica di Trieste. La comunità islamica ha un mosaico bellissimo, come del resto la città di Trieste. È composta da oltre 30 etnie diverse, provenienti da oltre 50 paesi diversi. Dunque abbiamo veramente tanti colori, tante lingue. Tutti quanti siamo accomunati da due cose: la religione islamica e la lingua italiana. È una giornata di festa per i fedeli, tra cui ci sono tante famiglie vestite con gli abiti della tradizione e anche tanti giovani. Prima della preghiera, un messaggio va alle vittime di Gaza e a tutti i fratelli musulmani che nel mondo soffrono a causa della guerra. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Inaugurati i nuovi spazi della Pro Pordenone, un nuovo centro culturale in centro città che ospiterà un archivio storico della memoria pordenonese. Nei locali attigui alla sede di Viale Cossetti, l'associazione Pro Pordenone, sodalizio che da quasi 80 anni promuove e valorizza l'identità pordenonese, ha inaugurato i suoi nuovi spazi destinati a diventare un nuovo centro culturale in città. Ospiterà un archivio storico della memoria pordenonese, una biblioteca monotematica dove saranno raccolte le pubblicazioni sulla città e una sala convegni a disposizione della comunità. Tra i materiali, un vero e proprio tesoro, una raccolta di oltre 3.000 immagini storiche di Pordenone donate dal collezionista Gino Argentin. Giuseppe Pedicini è presidente della Pro Pordenone. Ospiteremo la collezione di Gino Argentin sulla città di Pordenone, ma poi abbiamo anche una sala da 90 posti che potrebbe essere utilizzata per tutti gli eventi che verranno poi a essere organizzati in occasione del 2027. Il 2027 è un anno particolare perché è anche l'anno in cui la Pro Pordenone compie 80 anni dalla sua nascita, quindi festeggeremo un compleanno, ma saremo anche un utile supporto a Pordenone, città della cultura nazionale. Gino Argentin, collezionista. Adesso finalmente abbiamo Pordenone Ricorda, che sarebbe questa mia collezione, che è una collezione della storia fotografica di Pordenone, dove ci sono i treni a vapore, dove ci sono le diligenze di una volta. È tutto questo che si vede l'evoluzione da quel tempo a questo tempo qua. È da pensare che questo materiale era sparso in tutto il mondo. Io in una vita, in 50 anni di lavoro, sono riuscito a portarlo tutto qua. Dunque pensate che viaggi, raccomandate, telefonate, aste, amici collezionisti che ho collaborato per costruire questo patrimonio. Speriamo che Pordenone ne faccia buon uso tutti quanti, perché questa è la vera storia della città. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al meteo, il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 16 gradi, Gorizia 16,5, Udine 14,5, Pordenone 15. In area montana Piancavallo 9,5 gradi, Forni di Sopra 13, Tarvisio 9, Tolmezzo 14,5 gradi, Sappada 11. In quota sul Monte Zoncolan 5,5 gradi, sul Monte Lussari 2, sulla costa grado 13, a Lignano 15 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio avremo cielo da poco nuvoloso a variabile, vento in calo e la probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso su bassa pianura e costa, probabile maggiore presenza di nuvolosità al pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio. Soffierà vento da nord, da sostenuto a forte sui monti in quota e a tratti vento moderato da nord-est anche sul resto della regione. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A l'Udinese nel tardo pomeriggio giocherà in trasferta a Milano contro l'Inter. I friulani dovranno fare a meno di Toven, che non ha ancora recuperato l'infortunio avvenuto all'Olimpico contro la Lazio, e di Sanchez, cui il problema al polpaccio sinistro ha decretato la fine anticipata della sua partecipazione alla stagione. Appuntamento al Meazza, e bianconeri non vincono dal 2017. Basket, massima serie, la Pallacanestro Trieste scende in campo stasera alle 19 sul parquet del Pala Carrara contro la Estra Pistoia, ultima in classifica. Avversaria molto tosta, avverte l'allenatore Christian. Dovrebbe essere confermata la compagine che ha battuto la Virtus Bologna. In Serie A2 di basket, la Udine giocherà in casa contro la Fortitudo Bologna al Carnera con fischio d'inizio alle 18. Per i friulani si tratta della prima delle tre partite in calendario che potrebbe accorciare la distanza verso la promozione. Sfida in trasferta invece per la Gesteco Cividale, che da poco sta giocando contro Brindisi al Pala Pentassuglia. La formazione friulana vanta 9 vittorie conquistate nelle ultime 11 partite. Avvio di stagione per le grotte di Pradis, di nuovo accessibili da oggi e fino agli inizi di novembre, che quest'anno proporrà una nuova visuale della passerella sull'Orrido grazie alle manutenzioni da poco eseguite. Sarà visitabile anche il museo della grotta, in cui si approfondisce il contesto della valle abitata dagli uomini di Neanderthal quasi 50.000 anni fa. Ultima data per il tour dello spettacolo Il mio nome è Eddie, dedicato all'agente di polizia muggesano Eddie Cosina, deceduto tragicamente con gli altri membri della scorta del giudice Paolo Borsellino in via D'Amelio a Palermo. Appuntamento a Udine al Teatro Palamostra alle 17.30, ingresso libero. La violinista bulgara Laura Markova si esibirà in musiche di Paganini e Bach a Trieste al Museo Sartorio alle 17 per il cartellone della rassegna Corde in Armonia 3.0 promossa da Chamber Music Trieste. La mezzosoprana Margarita Svarceskaya sarà protagonista con il coro del circolo aziendale Fincantieri Varzila al concerto di musica classica con organo che si terrà a Trieste nella chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino in via Manzoni alle 19.30. Seconda tappa per il Bonas Noas Tour dei Tazenda a Prata di Pordenone al Pala Prata alle 21 anziché a Villa Varda di Brugnera a causa delle condizioni in meteo. Si intitola Lazarus, il musical scritto da David Bowie, che sarà in scena per la data zero della tournée nazionale, in cui sarà protagonista Manuel Agnelli. Appuntamento a Sacile, al Teatro Zancanaro, alle 17. Al termine dello spettacolo, Agnelli e il regista Walter Malosti incontreranno il pubblico alle 20 nella sala ballatoio di Palazzo Ragazzoni. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Samuel Montalto. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.